Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. E buongiorno, alle 7:35 minuti inizia la nuova diretta di Si Può Fare, il buongiorno del weekend di Radio 24 che inizia come ogni sabato mattina con una rassegna stampa, quindi un'occhiata veloce al giornale di oggi che ci accompagna fino al GR delle 8, 349 238 6666 anche su WhatsApp se volete commentare i titoli di giornali, le principali notizie di oggi sui giornali. Vai, cominciamo. E allora, giornali di oggi che hanno titoli e approfondimenti principalmente sulla questione migranti, con il solito braccio di ferro, chiamiamolo così, che va avanti tra l'Italia e l'Europa, promesse arrivano dai vertici della Commissione Europea, frenate arrivano poi dai leader europei. È stato Macron due giorni fa a parlare solo di una solidarietà con i paesi che accolgono, Italia e Grecia, per quanto riguarda i migranti non economici, quelli che hanno diritto all'asilo, cioè circa un 20%, cioè riducendo drasticamente il bacino da cui poi andare a calcolare ricollocamenti. Ma ieri è stata anche l'Estonia, pensate, l'Estonia, il piccolo paese baltico, che dice sì, però guardate che al prossimo vertice di Tallinn non aspettatevi delle decisioni in merito al prossimo vertice europeo. Poi la questione del piccolo Charlie Gadd in Inghilterra, con la decisione dei medici di sospendere l'operazione di spegnimento delle macchine che lo tengono in vita, una vicenda straziante. Eppure cercheremo di leggere qualche notizia, qualche commento, qualche approfondimento. Poi l'approvazione in Germania delle nozze gay, quindi qualcosa di più rispetto a quello che ha fatto l'Italia, una vera e propria equiparazione del matrimonio tra omosessuali rispetto al matrimonio eterosessuale. Cominciamo con i titoli rapidamente. Il Corriere: piano per sequestrare le navi, proposto un codice europeo con sanzioni per i soccorritori in mare, domani vertice urgente, linea dura dell'Italia sulle ONG, Juncker dice aiuti a Roma, ma l'Unione Europea prende tempo. Sequestrare le navi, scrive il Corriere, delle ONG che trasportano migranti. L'Italia è pronta anche alla linea più dura nel confronto con gli altri paesi europei. Juncker e Merkel dicono non vi lasceremo soli, ma come dicevamo prima, tra i membri dell'Unione c'è chi solleva dei dubbi. Su Repubblica diventa navi anche in Francia e Nord Europa. Ecco il piano europeo sui migranti, con il retroscena del Viminale, Ministero dell'Interno, delusi da Macron. E sui porti chiusi non bleffiamo, cioè sul fatto che si è detto appunto i porti italiani potrebbero essere chiusi anche per incompatibilità con la questione del turismo, che è una vocazione importante per l'Italia, potrebbero essere chiusi a quelle navi che non rispettino i codici europei previsti in queste situazioni. Ma che invece si stia bleffando e che non ci sia tutta questa fermezza italiana sulla questione dei migranti, lo scrive in prima pagina Libero, che dice chiusura dei porti, retromarcia di Gentiloni, governo di Pecoroni è il titolo. Nel timore di ritorsioni dell'Europa, dell'Unione Europea, continueremo ad accogliere migranti da tutto il mondo. Ci siamo rimangiati in 24 ore l'impegno a impedire gli sbarchi. Il Premier preferisce accontentare l'Europa piuttosto che gli italiani. Centro profughi in rivolta, si aggiunge poi, per i nuovi arrivi. L'unico blocco efficace è quello che i migranti si fanno da soli. A cosa ci si riferisce? Lo spiega anche il Giornale, che anche qui ha un titolo su questa vicenda. Basta immigrati, parola di immigrati. E l'Europa ci risponde ancora a picche. La notizia è la rivolta degli immigrati nel centro di Cona, a Venezia, al grido di basta, siamo troppi. La dice lunga sulla emergenza. Gli unici a non capire, scrive il Giornale in prima pagina, sono gli altri paesi europei che insistono con promesse ma senza decisioni. Allora vediamo velocemente, c'è anche un'intervista al commissario europeo per l'immigrazione Avramopoulos, che però è diciamo sul Corriere, a questo tono: capisco in pieno le preoccupazioni italiane, la situazione così non è più sostenibile, per questo siamo pronti ad aiutare, ad aumentare il nostro sostegno all'Italia, non solo politicamente, anche dal punto di vista operativo e finanziario. E queste sono le promesse. Sosterremo l'Italia nella discussione sulla cooperazione regionale, ci sarà per le attuali, se sarà per le attuali operazioni o per altre in un quadro diverso, lo discuteremo la settimana prossima al vertice informale dei ministri degli interni. Questa è la risposta alla domanda se ci sarà però una nuova missione che potrebbe portare rifugiati anche in altri paesi, cioè non soltanto, come dire, discussioni, ma anche proprio una decisione europea per finanziare una missione europea che, come dire, faccia quello che fa l'Italia o che fanno le ONG, prenda i migranti in mare prima che i loro barconi affondino, quindi evitando ulteriori tragedie, ma che li portino direttamente non solo in Italia ma altrove. Sapete che il codice del mare, il diritto del mare, prevede che vengano i naufraghi riportati nel porto più vicino, più sicuro, però qua con questa questione del porto più vicino, più sicuro, l'Italia e la Grecia, ma soprattutto l'Italia, si stanno sobbarcando un carico di migranti che è più intollerabile nella misura in cui l'Italia fa parte di una aggregazione di stati che è l'Unione Europea. Poi l'ultima domanda al commissario è: ma riusciremo a ricollocare le quote di rifugiati già previste, i rifugiati che stanno in Italia e in Grecia, che dovrebbero essere accolti negli altri paesi europei, ricollocare, la risposta di Avramopoulos, entro settembre dall'Italia e dalla Grecia tutti coloro che ne hanno titolo è assolutamente fattibile. Bah, sarà come dice il commissario. Poi, ancora su questo brevemente, un punto di vista del Ministero dell'Interno, un retroscena secondo Repubblica: il Viminale prepara la battaglia sui porti chiusi, non bleffiamo. Macron contraddice se stesso. Ai piani alti del Viminale non si nasconde la delusione per la posizione francese. Dire che l'80% di chi arriva in Italia è un migrante economico non è la risposta che ci aspettavamo. L'Italia ha esaurito il suo bacino di possibili beneficiari. L'Europa deve ampliare le nazionalità ricollocabili. Quanto al piano d'accoglienza, il nostro paese vede una forte impennata del settore turistico e il numero di migranti ospitati nei comuni deve essere compatibile anche con questa nostra vocazione. È possibile che ci sia un sistema di salvataggio internazionale, ma l'accoglienza sia solo italiana? La risposta è no. Qua a parlare è una fonte del Ministero dell'Interno, non si sa esattamente chi, ma insomma, che poi prosegue: da qui il possibile blocco dei porti. Chiaramente, fanno sapere dal Ministero dell'Interno, ci riferiamo solo alle navi che non operano nel quadro delle operazioni ufficiali europee. Quindi si ribadisce che l'Italia su questa questione della chiusura dei porti fa sul serio, nonostante invece sia sembrato quasi che ci sia stato una retromarcia, come diciamo prima, anche leggendo i titoli degli altri giornali, ripeto, Libero, chiusura dei porti, la retromarcia di Gentiloni, però qua notizie ufficiali al momento non ce ne sono. La vicenda migranti la lasciamo qua. Possiamo fare un accenno, anzi andiamo sulla vicenda del piccolo Charlie, perché è l'altro titolo principale che c'è sui giornali di oggi. Charlie, scrive il Corriere, e il tweet del Papa: i medici del piccolo Charlie hanno deciso di concedere qualche ora in più prima di staccare la spina. Il Papa con un tweet ha invitato a difendere la vita. Sulla Stampa: rinviato lo stop alle macchine che tengono in vita Charlie, il Papa difendere sempre la vita. Se vogliamo così approfondire un po' e rinfrescarci la memoria su questa vicenda, che è abbastanza, è molto straziante, abbastanza anche chiara, però forse specificare nuovamente le tappe di cosa è accaduto. Il piccolo Charlie Gadd, nato a Londra ad agosto, dall'11 ottobre è ricoverato, dell'anno scorso, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Great Ormond Street Hospital per una sindrome che si chiama da deperimento mitocondriale. È una malattia genetica rara e mortale. Charlie non vede, non sente, non si muove. Queste sono le condizioni del bambino. La scelta dei medici di sospendere le cure. Il piccolo è mantenuto in vita artificialmente, intubato, attaccato a macchinari che gli consentono di respirare e nutrirsi. I medici appurano che per lui non ci sono possibilità di miglioramento, ma solo di peggioramento, e quindi iniziano a sostenere che le cure vadano sospese. A quel punto i genitori di Charlie si battono per trasferirlo negli Stati Uniti, dove si sta sperimentando un trattamento terapeutico sperimentale di queste malattie mitocondriali. Data la contrarietà dell'ospedale, lanciano una raccolta fondi sul web per organizzare la trasferta, ma poi il contenzioso tra i genitori e i medici dell'ospedale finisce in tribunale con 3 sentenze a Londra: ad aprile in primo grado, poi il 25 maggio in appello e l'8 giugno scorso quello della Corte Suprema Europea, la Corte di Strasburgo. Tutti i verdetti sono concordi: no al trasferimento e fine delle cure. La vicenda, che appunto ha coinvolto anche il Papa, finisce, vediamo come, sulla prima pagina di Avvenire: fine vita, il Papa difendere i malati, impegno d'amore. Il tweet serale del Papa, che invita a mettersi dalla parte della vita umana, soprattutto quando è ferita dalla malattia, ha concluso ieri con una carezza una giornata di angosciosa attesa dell'annunciata fine di Charlie Gadd, il bambino londinese di 10 mesi affetto da una grave malattia genetica. 349-238-6666, traffico, torniamo tra un attimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta E allora sulla, di nuovo torniamo sulla prima pagina di Avvenire, dove stavamo leggendo il titolo principale sulla vicenda di Charlie: fine vita, il Papa difendere i malati, impegno d'amore. Il tweet del Papa, l'abbiamo detto, e poi il commento, lo leggiamo, un pezzetto brevemente di Marina Corradi: l'indifferente bestemmia colpisce questa indifferenza dell'Europa, incrinata qui e là da trepidanti veglie di preghiera di fronte a due genitori che disperatamente hanno chiesto che il loro figlio fosse lasciato vivere. Forse se al contrario quel padre e quella madre combattessero come il padre di Eluana Englaro perché la morte fosse data, allora il favore mediatico da Parigi a Berlino a Madrid sarebbe stato un altro, perché oggi chiedere la morte per chi soffre o è in stato vegetativo suona come un'affermazione di indipendenza e libertà. Piace, esiste, continuiamo purtroppo a doverlo annotare, un favor mortis, una preferenza al diritto di morire in questo nostro Occidente. Insomma, si vuol mettere in evidenza come questa vicenda non ha sollevato una indignazione, un coro anche mediatico sui giornali, ma anche nei politici, di discussione, quanto invece è accaduto quando i familiari hanno affermato il diritto contrario, cioè il diritto a staccare la spina. È un punto di vista questo di Avvenire, però, che dobbiamo anche ammetterlo, in Italia è contraddetto un po' dall'evidenza, perché tutti e tre, per esempio, i leader Renzi, Salvini e Grillo ieri hanno scritto, twittato, parlato contro questa sentenza europea, si sono messi dalla parte dei genitori, quindi diciamo dal punto di vista che sostiene anche Avvenire. Tre esempi velocemente: Renzi scrive: un cucciolo d'uomo non valeva un'attenzione diversa delle autorità europee? L'attenzione diversa, l'attenzione c'è stata, quella è una sentenza, poi si può essere anche contrari. È ovvio che questa questione divide le coscienze, però qui stiamo solo annotando il fatto che c'è un allineamento di Renzi con Salvini, che dice addirittura un omicidio con la complicità, anche questa volta, dell'Unione Europea, che tace, fino ad arrivare a Grillo che scrive: neppure Pilato se ne lavò le mani in questo modo, Charlie non è clinicamente morto. Quindi in questo caso tutti i leader politici sono unanimemente contrari, e invece si sono allineati con quelli che sono il punto di vista della famiglia, i genitori di Charlie, che poi nel frattempo hanno ottenuto dall'ospedale più tempo prima che la decisione, che è stata avallata anche dai tribunali, possa essere messa in pratica. Allora andiamo su altri giornali per vedere anche delle altre notizie, degli altri titoli. Per esempio il giornale ha il titolo principale con: chiude Equitalia, non ci mancherà, ha terrorizzato il paese, ora cambia nome ma le tasse restano, l'eredità 100.000 avvisi e mani nei conti correnti. Sapete che da lunedì arriva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che prende il posto di Equitalia. Poi ci sarà tempo e modo di capire i dettagli di questa notizia, insomma di questo passaggio. Per restare sui temi economici, sul Sole 24 Ore, in rialzo redditi e consumi, la pressione fiscale risale pure al 38,9%. Segnali positivi sono arrivati ieri dai redditi cresciuti del 2,4% su base annua e dei consumi che con l'incremento trimestrale del primo trimestre dell'anno portano a segno una crescita su base annua del 2,6%, ripeto, redditi più 2,4%, consumi più 2,6%, segnali positivi, c'è un po' più di reddito, c'è un po' di spesa, oggi tra l'altro cominciano i saldi, e però sale anche la pressione fiscale più 0,3% sempre nello stesso periodo. Borse 6 mesi record con banche high tech è il titolo principale del Sole 24 Ore, che si concentra sui listini globali che hanno ottenuto il miglior risultato dal 2009. Poi invece ancora il Giorno ha una copertina dedicata a Vasco Rossi. Vasco Modena Park 010717, la data del concerto di oggi, la grande festa, l'attesa per il più grande evento forse dell'anno, dell'estate, oltre 200.000 persone attese per questo super concertone di Vasco. E poi ancora invece il Manifesto, che ha una foto della porta di Brandeburgo in Germania con attivisti e movimenti gay avvolti in bandiere arcobaleno, la bella coalizione. Giornata storica in Germania, il Bundestag approva la legge sul matrimonio per tutti e archivia la più blanda normativa sulle unioni civili. Vittoria dell'alleanza rosso-rosso-verde tra SPD, Verdi e Link, compatta sul voto. Merkel dice no, ma senza fare le barricate. Festa in piazza. La cancelliera Merkel ha aperto, e questa è stata la svolta, al voto di coscienza dei parlamentari della CDU-CSU, che evidentemente hanno votato in molti a favore. Lei, anche nonostante questa apertura, ha però poi dichiarato che avrebbe votato contro questa legge. Per lei il matrimonio resta quello tra un uomo e una donna, ma questa apertura al voto di coscienza ha aperto la diga, e quindi l'approvazione del matrimonio tra omosessuali. Il Fatto Quotidiano ha invece in prima pagina un'altra notizia: il contratto segreto del governo che regala a Intesa 5 miliardi nostri, così si arricchirà sul crack delle banche venete. Ci sono alcuni dettagli su questo contratto che è stato firmato. Una delle clausole, scrive il Fatto, che ha imposto al governo di versare a Intesa sull'unghia entro la sera di lunedì 4 miliardi 985 milioni di euro, pena la decadenza del contratto, quindi soldi versati immediatamente, che per mandare via 3.874 persone Intesa avrà dallo Stato un contributo a fondo perduto di 332 mila euro per ciascuno. Da Banca Intesa fanno sapere che non ci saranno allontanamenti, ma solo uscite volontarie, e ci sarebbero anche degli scivoli importanti, secondo quello che scrive il Fatto, pagati oltre i 5 miliardi dallo Stato. Un'ultima notizia positiva sul turismo, poi chiudiamo. Turismo torna all'età dell'oro del turismo in Italia. Una ricerca spiega il boom di presenze, scrive la prima pagina della Stampa. Pronti a superare Spagna e Francia, siamo verso la soglia degli oltre 400 milioni di notti in albergo, cosa che ci riporterebbe al secondo posto in Europa dopo la Spagna, superando la Francia, che invece negli anni scorsi ci aveva superato. Buone notizie arrivano in particolare da Roma e dall'Emilia-Romagna, due mete classiche del turismo italiano che sono entrambe in netta crescita. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo con Si può fare. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. 8 e 19 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, 800 24 00 24 vi aspettiamo per stare con noi tutta la mattina fino alle 10. Carlo, Milano Monterosa. Milano Monterosa, sole, bello, però un po' più freschino. Stamattina sono uscito solamente in maglietta e mi sono detto, ma forse ho sbagliato. Però credo che fra un quarto d'ora farà il solito caldo, caldissimo, umidiccio. Ho visto gente in giacca a vento e ho capito che io, che ero con una maglietta anch'io a maglietta, maniche corte, giacchetta lì, avevo sbagliato qualcosa. È una poesia di Ginsberg questa, famosissima. Ho visto gente con la giacca a vento. Volevo anche rettificare una cosa che forse ho detto imprecisa settimana scorsa. Che ti ricordi realtà, ancora? Sì, siamo in onda anche domani in diretta. Perché forse avevo detto l'ultimo insomma, invece è questo l'ultimo weekend completo. Ciao. Ma in realtà siamo in onda anche sabato, i prossimi sabati. C'è un po' di voglia di vacanza, questo però ci abbiamo ancora da lavorare, questo ed è anche giusto. Cari ascoltatori, questa mattina parleremo di gioco d'azzardo, ma anche gioco vero, con un festival del gioco che c'è in Puglia, e poi parleremo di come con 10 euro fare la spesa in una settimana e mangiare bene, anzi forse più sano di chi spende tanto di più, con Lisa Casali. Lisa Casali. Ecco il suo esperimento Quanto Basta, ripeto 800 24 00 24 e poi giochiamo anche noi, ovviamente è quasi un indizio. E a proposito di cose da mangiare, parliamo di limonare, di limoni, parliamo del bacio, perché c'è la giornata del bacio il 6 luglio. Perché la giornata del bacio? Adesso, se trovo l'articolo, lo troviamo. Perché è il giorno in cui è stato fatto il record, il primo record del bacio più lungo. Perché in realtà è un record che poi è stato battuto. 31 ore e 30 in Gran Bretagna, record battuto. Poi, questo è il 2005, l'anno scorso, una coppia thailandese formata da Ekachi e Laksana Thiranart, che per San Valentino del 2013, quindi 3 anni fa, si sono baciati per 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. 58 ore, ma vorrei precisare, perché uno magari dice, sì, vabbè, ci si sdraia, le regole sono ferree, non si può staccare le labbra mai, si beve con una cannuccia, si può andare in bagno solamente ogni 3 ore e si va accompagnati dal proprio partner mentre si continua a baciarsi. Non si può stare sdraiati, ma bisogna stare in piedi. Insomma, è dura fare 58 ore di bacio. E allora noi vi chiediamo, quali sono i vostri baci da raccontare, i vostri baci epici, baci da record, baci sotto la pioggia, baci al mare, in mare, sotto l'acqua del mare. Vi permettiamo anche dei baci brevissimi, baci ovviamente, brevi, perché 58 rubati. Ore sotto la pioggia, quello più che un braccio è un divorzio. Baci dati per sbaglio, non so, uno è lì in metropolitana che aspetta il tram e poi si gira un attimo e dà un bacino così e poi scappa. E poi scappa e via. Come, certo che si può fare, assolutamente, poi siamo si può fare. 800 24 00 24, vi aspettiamo, vai, cominciamo. Go to a cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't make plans, I broke. No, no, this can't be right. I know the time is tight. I've only just been paid 3 weeks, but there's still I've seen. Cash machine, hard fi, e sono macchinette mangia soldi, le slot machine, di cui torniamo a parlare oggi perché c'è una nuova legge in una nuova regione il Friuli, che dà una mano ai baristi che decidono di togliere le slot machine. E fa anche un sacco di altre cose. Siccome ce ne occupiamo sempre, cose, sì. Adesso abbiamo deciso giustamente di occuparci anche di quelli delle regioni, perché se sono più brave le regioni, poi speriamo un domani in una legge nazionale. Ecco noi, consigliere regionale del Friuli, Movimento 5 Stelle, relatore di questa legge, Andrea Ussai, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Allora, dico io alcune cose veloci, poi la faccio parlare. Limite di 500 metri dai luoghi sensibili. Chi le toglie avrà uno sconto sull'IRAP, chi le tiene invece non potrà accedere a fondi regionali. E anche un aumento, mi sembra, dello 0,98 dell'IRAP proprio in quei locali. Adesso, ecco, appunto, adesso cominciamo così. Cosa prevede questa legge, consigliere? No, io parto dalla legge precedente. Noi avevamo già una legge regionale che era la 1/2014, che in realtà era solo una legge bandierina, perché non stanziava un euro in più per il contrasto al gioco d'azzardo e in realtà faceva un tavolo tecnico, un osservatorio sul gioco d'azzardo, e poi stabiliva la distanza dai luoghi sensibili, quindi chiese, scuole. Il problema è che questa legge da quel momento in poi non potevi più installare le macchinette. Il problema, appunto, è che c'è una diffusione così capillare nelle nostre città che è stata una legge totalmente ininfluente. Perché c'erano già le macchinette, quindi lei c'erano dice, già le macchinette. Per occuparsi delle nuove concessioni non serviva a nulla se non ci si occupava di quelle già esistenti. Esatto, non solo, ma prevedeva appunto sia un marchio slot free per pubblicizzare gli esercizi che decidevano di togliere macchinette e degli sgravi IRAP che non sono mai stati applicati. Però ci parli invece di cosa prevede questa legge che è stata approvata. Parliamo di questa legge. Diciamo, le parti più importanti di questa legge, come è già stato detto, è quello di limitare i finanziamenti, i benefici, i vantaggi economici regionali solamente agli esercizi che non hanno nei loro locali le macchinette, e questo diventa un requisito essenziale per il finanziamento. Oltre a questa cosa qui, diciamo, si agisce anche sugli esercizi in estere, per cui ci sarà un tempo per adeguarsi alla distanza dei luoghi sensibili, che io in realtà avevo messo tempi un po' più stretti, diciamo, la Commissione ha reso un pochino più morbido, ma comunque saranno 5 anni per sale giochi, sale scommesse e 3 anni per tutti gli altri esercizi che hanno delle slot machine, e poi, come è stato detto, ci saranno delle agevolazioni. Un'agevolazione dell'IRAP dello 0,92% per 3 periodi di imposta per chi decide di toglierli volontariamente, e un aumento dell'IRAP dello 0,92% invece per chi decide di mantenerli. Ma mi scusi, prego. Posso chiedere solo una cosa? Perché il grosso mi sembra questo fatto che sia retroattiva, ovvero chi ha già una sala slot entro 3-5 anni immagino che debba chiuderla, soprattutto in centro nelle città non ci potranno praticamente più essere, perché se come luoghi sensibili calcoliamo anche le chiese, anche le scuole e tutto, immagino che non esista raggio di 500 metri in cui all'interno del centro di una città ci possa essere una sala slot, è giusto? Assolutamente sì, l'offerta del gioco si ridurrà e la maggior parte delle città sarà slot free, e anche perché noi abbiamo aumentato i luoghi sensibili, che appunto erano già scuole, impianti sportivi, luoghi di culto, abbiamo messo anche luoghi di aggregazione, ludoteche, ricreatori, oratori, bancomat. Ho visto anche bancomat, quindi esatto, è veramente impossibile, se posso dire. Se togliamo 500 metri, diciamo che gli esercizi dovranno fare una scelta: o spostarsi, se vogliono tenere le macchinette lontano dai luoghi sensibili, oppure toglierle. C'è da dire che avranno tempo per adeguarsi. Io voglio ricordare, a Milano credo che non esista un posto lontano a 500 metri da un bancomat. Voglio ricordare che, per quanto ci riguarda, non stiamo facendo una crociata contro le slot machine, contro l'azzardo. Ognuno faccia quello che gli pare, se vuole giocare e se vuole spendere, investire qualche euro per gusto, per divertimento, va benissimo. Ma nelle nostre città, dove chiudono cinema, librerie, negozi di ogni tipo, e dove aprono solo sale slot, e dove praticamente quasi tutti i bar hanno l'angolo buio, peraltro, dove si gioca alle macchinette, esiste una vera e propria patologia del gioco d'azzardo, la ludopatia, e soprattutto se tantissimi baristi stanno rinunciando alle slot machine che gli portano dei guadagni perché non le vogliono più nei loro bar, e di queste storie ne abbiamo raccontate a decine, ci sarà qualcosa che loro hanno visto che noi umani non abbiamo neanche immaginato pensare. E soprattutto i numeri sono veramente impressionanti. Per esempio in Friuli 400 persone in cura, 1,3 miliardi di gioco all'anno, è vero? Sì. sì. Adesso oltre 500 aumentano di anno in anno. E non, per il momento la legge che avevamo prima è stata totalmente inefficace. In questa legge che abbiamo varato c'è anche un incentivo per fare dei lavori di ristrutturazione. Se uno decide di togliere, fino a un massimo di 5.000 euro verrà dato un contributo per appunto ristrutturare, togliere, fare lavori di manutenzione nel locale. Ecco, però c'è un problema di fondo. Non temete che possa esserci un correttivo, un intervento da parte dello Stato? Spesso ci sono leggi, leggine finanziarie, decreti omnibus nei quali a fine anno entra una manina, perché poi dal gioco, dall'azzardo, lo Stato preleva quasi 10 miliardi all'anno, se non ricordo male, una cifra attorno a questo ordine di grandezza. E che ha la grande ipocrisia, perché si dice a parole di voler limitare il gioco, eccetera, eccetera, poi però nei fatti il gioco è una fonte di entrate grandissima. Sì, diciamo che il problema si sente di più in periferia, infatti ci sono molti sindaci coraggiosi che fanno ordinanza per limitare, per aumentare le distanze dei luoghi sensibili, limitare gli orari di possibilità del gioco, e anche le regioni. Il problema, come avete detto voi, è che c'è un conflitto di interesse, perché lo Stato da anni ormai fa cassa, no? Sulla pelle dei cittadini, dico io. Per cui il rischio è che in accordo Stato-Regioni o con delle leggi nazionali vengano garantite condizioni più favorevoli a quelle che sono le lobby del gioco d'azzardo che condizioni per tutelare la salute dei cittadini. Ma le posso chiedere una cosa, nel senso che è molto preciso questo, e la questione però del mancato guadagno di soldi, che è molto che è davanti agli occhi di tutti, che sono appunto 10 miliardi, e la domanda gliela faranno tutti: dove pensate di prendere i soldi? Ma in realtà io le vorrei fare una domanda un po' diversa. Non c'è il rischio che rendendo così difficile le slot machine in mezzo alle nostre città, tutti si sposteranno sul gioco online e noi ci terremo lo stesso numero identico di ludopatici e di malati di azzardopatia, solo che non avremo più i 10 miliardi che ci entrano come tasse e con i quali diciamo si pagano anche le cure per gli azzardopatici? Allora, intanto bisogna ribadire che ci sono anche danni, no? Per il sistema sociosanitario è un costo l'azzardopatia, per cui sono 6 miliardi all'anno. E poi ci sono 4 miliardi di mancata IVA, no? Perché questi, invece che investire i soldi in beni di consumo, chi è malato di azzardo investe lì i soldi. Per cui non, abbiamo sì delle entrate, ma anche, abbiamo anche delle perdite. E poi è vero che potrebbe esserci una riduzione delle entrate, ma anche è vero, diciamo, che la tutela della salute dei cittadini dovrebbe essere la prima cosa, perché certo, bisogna vedere qual è il modello di sviluppo che vogliamo, se vogliamo incentivare l'economia reale o se vogliamo incentivare questa economia malata che, ricordo, è fonte anche di guadagno anche per la malavita organizzata, c'è usura, c'è riciclaggio, e quindi sta nel legislatore nazionale decidere se da quale parte andare. È un'ipocrisia che anche secondo noi dovrebbe in qualche modo essere interrotta. Tra l'altro, consigliere Ussai, ci si concentra sulle slot, sulle macchinette mangiasoldi, però di giochi d'azzardo ce ne sono tantissimi ormai nei bar, nelle tabaccherie, Lotto, Super Lotto, Lotto and Company, con estrazioni ormai frequentissime ogni mezz'ora. Ti tolgono soldi dalle tasche in qualunque maniera. Anche questo può portare alla ludopatia. Per questo e contro questo, che cosa pensate di poter fare, anche se per una regione ovviamente è difficile intervenire? Appunto, come dice lei, le competenze delle regioni sono molto limitate. Quello che serve è un intervento nazionale che limiti, come per le sigarette, che ci sia il divieto totale di pubblicità e che ci sia una riduzione importante di quello che è il gioco. Noi non siamo per il proibizionismo, cioè vanno date delle regole più stringenti, diciamo, e questo deve farlo il livello nazionale. Noi quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, adesso la battaglia o la guerra deve essere vinta a livello nazionale. Come diceva lei, è logico che il togliere e ridurre l'offerta ha un significato soprattutto a livello preventivo. Chi è malato probabilmente si sposterà o in periferia o su altri tipi di gioco online. corsi online dove anche lì bisognerebbe agire a livello nazionale. Però sì. Infatti noi abbiamo chiesto con un ordine del giorno che poi ci è stato accettato di aumentare i finanziamenti e di cercare di rafforzare le strutture poi riabilitative e di cura, no? Che tante volte non sono dimensionate in maniera adeguata per prendere in carico le famiglie. Giusto. Comunque diciamo che è difficile tornare indietro dopo tanti anni, no, di liberalizzazione selvaggia, sarà difficile tornare indietro, ma dobbiamo iniziare a percorrere questa strada. Aspettiamo, come detto tante volte, una legge nazionale, un riordino che insomma metta fine anche a questa ipocrisia per cui da una parte si dice sì, il gioco può creare dipendenza e lo crea in migliaia di persone, poi dall'altra si prendono i soldi delle entrate fiscali grazie all'azzardo, si mettono da parte per fare altre cose. Noi intanto ringraziamo fin troppo pochi. Andrea Ussai, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Friuli e tra l'altro giustamente un ascoltatore al 349-238-6666 mi dice Friuli Venezia Giulia e non solo Friuli, siamo precisi. Giusto. E poi un'altra ascoltatrice dice rimango perplessa sull'accanimento contro l'azzardo in termini di sale slot o solo slot, scusate, ma i bar che vendono i gratta e vinci e la pubblicità del gioco online ad esempio che fa il pupone Totti, no vabbè, è tutto lo stesso campo, è più difficile intervenire sulle altre cose, è più facile sulle slot. Esatto, devo dire che anch'io a volte io non ho una posizione così contraria alle slot, però i dati sono veramente allarmanti. La spesa media annua pro capite in Italia nel gioco d'azzardo è 1.583 euro a persona, invece per i libri spendiamo 58 euro all'anno. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco anche per raccontarci i vostri baci epici in attesa della giornata del bacio che si celebrerà il 6 luglio. Sono i tuoi occhi che mi aiutano a ricordare che si può fare, ricominciare, il primo passo poi si vedrà e poi si vedrà. Guardo i tuoi occhi che mi aiutano a ricordare che si può fare, ti porto al mare, facciamo il bagno, poi si vedrà e dopo si vedrà. Eccoci qua, 800 24 00 24, abbiamo appena sentito dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia della nuova legge regionale che pone dei limiti al gioco d'azzardo e dà una mano ai baristi che rinunciano alle slot alle machine, slot, alle macchinette mangiasoldi. Andrea da Verona, buongiorno, benvenuto. È andato a giocare alle slot machine, speriamo di no dopo quello che abbiamo detto, irrefrenabile. E allora la legge su cui vi chiediamo anche di dire la vostra, se è un si può fare in qualche modo che vi ha convinto, 800 24 00 24 prevede limiti di 500 metri dai luoghi sensibili che sono solo le scuole, le chiese ma anche i bancomat, compro oro per esempio, chi toglie le slot avrà uno sconto sull'IRAP, chi invece le tiene avrà un piccolo aggravio, una legge che è stata anche contestata, questo non glielo abbiamo chiesto proprio perché prevede che non si possa accedere a fondi regionali di qualunque tipo per i bar che tengono le slot al loro interno. Andrea, la Verona, sì, ce lo eccolo. Buongiorno. Ciao. Vai. Allora, cosa vi posso dire? Non lo sappiamo noi. Sei tu che hai chiamato, cosa volevi dire? Sì, no, il riferimento al bacio, volevo raccontarvi un mio bacio. Perfetto. Lontano nel tempo. Ecco, vai, un bacio allora, particolare? Se sì, te lo ricordi ancora? Ecco, sì. I baci essenzialmente sono tatuaggi emotivi. Wow, tatuaggi emotivi. Questa te l'hai ripreparata però, dai. Ma è il tuo cavallo di battaglia, No. Io sono uno che a volte gioca con le parole, però ci sono baci particolari che si ricordano, soprattutto quelli in gioventù. Bravo, raccontaci questo tuo tatuaggio emotivo. Allora, io mi trovavo al lago, parliamo di 83-84. Lago di Garda? Lago di Garda, sì, io abito a Verona. 83-84 hai detto? Sì, ero 16-17. Perfetto, e che succede? Verona, tra l'altro, non è una città qualunque per i baci. Vai. Io mi trovavo lì al lago perché prestavo servizio in albergo. E allora il pomeriggio trascorrevo sempre un paio d'ore in spiaggia, anzi sul pontile, il pontile privato dell'albergo. Sì, e quel pomeriggio ero sdraiato mentre guardavo l'acqua e ho iniziato a scambiare degli sguardi con una turista, una scandinava. Vabbè, dai, il classico privilegio di chi lavora nel turismo e becca subito la scandinava, scambia gli sguardi e poi... Un minimo di privilegio ci vuole. Comunque niente, questa scandinava più o meno coetanea, forse un paio d'anni in più, ha regalato a me un 10-15 minuti di sguardi mentre lei nuotava. A un certo punto io mi sono stancato di rimanere sdraiato. Di guardare, esatto. Mi sono alzato, ho percorso gli ultimi metri del pontile, mi sono tuffato e sono riemerso proprio di fronte a lei. E con un coraggio anche, ma al tempo ero abbastanza timido, l'ho baciata subito. Senza dire una parola, così? Senza neanche conoscerti. Cioè, io sono riemerso di fronte a lei. Ma è stupendo, sembra la pubblicità di un cornetto gelato. Sì, ma io lo ricordo come fosse ieri questo bacio. Perché e lei come ha reagito? E lei è rimasta subito sorpresa, ma si è lasciata andare anche lei a questo bacio, che probabilmente lo desiderava, perché gli sguardi Ma di solito si dice lei adesso è mia moglie, invece mi sembra di capire che non è così. No, ma anzi. Anzi, dopo che ci siamo lasciati andare ad un bacio di almeno 10-15 minuti nell'acqua, io niente, poi... Te ne sei tornato su in albergo, sì, è finita lì. Il lavoro chiama, bisogna... Ah, così? Tornare. Sì. Ma sei un rubacuoco, cioè... E non l'hai mai più vista? Sedotta e abbandonata? No, anzi, forse ero ottimista di incontrarla il pomeriggio successivo, ma... Ma arrivano e poi vanno. Noi speriamo che lei vive in Italia, che stia ascoltando Radio 24 a questo punto e che ripassi da Verona per incontrare questo bacio antico. Bellissima storia, Andrea. Ci sarebbero dei problemi perché la mia compagna adesso non sarebbe d'accordo. All'epoca non c'erano i cellulari, quindi non potevate neanche scambiarvi il numero di cellulare e esatto. Niente. Però mi è rimasto questo bacio veramente memorizzato. È una storia bellissima, concorre assolutamente per il nostro gioco del raccontaci il bacio più bello. E direi che un bacio senza parole, senza neanche una parola, così dopo 10 minuti di sguardi al mare, è bello. A me questo manca, io non l'ho mai fatto. Mi immagino la scandinava bellissimo. Che in una radio scandinava stia raccontando in questo istante la stessa identica storia, dicendo: mi è capitato una volta al lago di Garda in Italia di un uomo che è spuntato fuori dall'acqua e mi ha baciato per 15 minuti. Traffico, torniamo tra un attimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, quando sono le 8:48 minuti, ci ha chiamato Max da Roma. Buongiorno, benvenuto Max. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao, su cosa volevi intervenire? Io volevo intervenire sulle slot machine nei bar. Vai. E per me è molto ingiusto quello che viene fatto come sgravi fiscali, in quanto si va a premiare chi non lavora, diciamo, correttamente dentro il bar. Secondo me nei bar va venduto tutto ciò che è bar. Io non venderei neanche le sigarette. Non capisco perché non si va a premiare chi invece lavora all'eccellenza. Non è perché proprio... scusa, non si va? Si va proprio a fare quello, cioè uno che rinuncia alla slot e cerca di fare il caffè, caffè cornetto, cioè di fare il bar, veramente avrà gli sgravi. Non ho capito perché invece secondo te non si premia chi fa il bar, perché? Perché chi mette le slot ha già fatto una scelta imprenditoriale sbagliata dall'inizio. Nel senso, se io faccio un bar, lo faccio perché ho delle, diciamo, peculiarità, che è un concept per darlo ai clienti, non per vendere gratta e vinci o le schedine. Quello è un altro tipo ma tu di vuoi gioco. Dire chi non ha mai messo una slot è penalizzato rispetto a... Certo. Questo però non lo sappiamo, perché però non gliel'abbiamo chiesto. Credo che nel calcolo dell'IRAP, se non hai le slot, anche se non le hai mai avute, pagherai un po' meno. No, lo sgravio dovrebbe valere per tu. Quindi mettiamola così. Comunque si va in quella direzione. Questo che voglio dire, nel senso che tu dici è molto sbagliata, si va nella direzione di voler limitare, ovvero che non tutti i bar abbiano le slot, che non sia praticamente obbligatorio avere le slot, anzi al contrario, che sia molto difficile avere le slot nei centri abitati. Mettiamola così, Max, il tuo è un emendamento che secondo me si può accogliere assolutamente, cioè di fare lo sgravio a chi anche non le ha mai messe le slot, assolutamente, ma siccome in questi anni invece le hanno messe in tanti, forse tantissimi, la maggioranza stai per dei dire bar, tutti quasi tutti, perché sono una fondazione Conte guadagna molto facile, adesso si dà una mano a chi decide di tornare indietro. Comunque Max ha precisato, ha fatto la sua precisazione, grazie. Che poi è sempre la questione del figlio al prodigo, sì. No? È quella che quando uno è prodigo gli dà fastidio il figlio al prodigo, che siccome torna, è lui che torna, allora si ammazza il vitello grasso. E adesso andiamo invece dove si parla di giochi veramente, perché quando si parla di azzardo e di slot si dice gioco, ma non c'è moltissimo da ridere. Qua invece sanno come si fa a giocare. Il gioco a noi piace. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Parliamo del Festival dei Giochi a Ceglie in provincia di Brindisi ed è con noi Sonia Gioia, ciao! Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. E allora, centro storico chiuso, se abbiamo capito bene, per 5 giorni addirittura. 5 giorni di giochi, dalla corsa coi sacchi a giochi virtuali sullo smartphone. Qual è il programma? Esatto. Se mi permettete vorrei ricollegarmi a quello che dicevate poc'anzi. Sì. Il nostro è un festival militante che punta a liberare la città di Ceglie Messapica dalle slot machine. Noi abbiamo proprio ingaggiato una battaglia per riportare la gente in strada e farla giocare, così come è successo ieri sera in una spettacolare partita del... Oddio, non ti sentiamo. Pronto? Più Sonia, una partita di... è andata giù. Gli è arrivata una pallonata, perché siccome è un festival incredibile che dura 5 giorni nei quali viene chiuso il centro e tutti si mettono a giocare per strada, probabilmente qualcuno stava giocando a calcio per strada, è arrivata una pallonata e ha dovuto attaccare il telefono, così immaginiamo. Sonia, ci sei adesso? Sì. Ottimo. Non sono mai andata via. Aspetta, no, infatti, non ti sentivamo più. Ci hai sentito le nostre stupidate. Ci stavi parlando di una mega partita di ieri sera? Sì, una partita di calcetto, sì. Fra i sacerdoti della città e le suore di Villa Aurora, che sono signore anche age. Cioè sacerdoti scese... contro suore? Sì, ma con la tunica, sì. No? In pantaloncini? Sì, sì, No, sono scesi con in divisa. In abiti talari, assolutamente. E chi arbitrava? Il cardinale? Francamente l'arbitro era nell'alto dei cieli, perché noi siamo fatti un po' così. Avendo, si affidavano direttamente a lui, all'arbitro più importante. Però è pericolosissimo, cioè veramente c'è un rischio bestemmi altissimo, secondo me, se addirittura l'arbitro è Dio, se posso dire. Abbiamo visto un corpo a corpo che non ci aspettavamo, tra preti e suore, che è stato veramente Aspetta, perché qua si va sul pericoloso. Io però vorrei le immagini di questa partita, l'avete documentato? Abbiamo video e abbiamo foto straordinarie, sì, francamente siamo rimasti sorpresi anche noi, perché la partita doveva essere, come dire, un passo simbolico di pochi minuti e invece è successo. È dilagata, Chi ha vinto? E hanno vinto i sacerdoti, però le suore se la sono giocata tantissimo. Sonia, quali sono i giochi più apprezzati al Festival del Gioco di Ceglie e Messapica? Ceglie Messapica, i giochi che fanno, come dire, il botto, che radunano in piazza qualcosa come 5.000 persone a volta, sì. Sono la cuccagna, che è un momento veramente tribale. La cuccagna, mamma mia, sì. La cuccagna, che è il palo quello dove si sale? Esattamente, unto di cioccolata per i bambini, perché c'è anche la cuccagna dei piccoli. Certo. E bisogna arrivare in cima, no? A prendere la cuccagna. Assolutamente, a prendere salami e altre leccornie. Bellissimo. E fra l'altro c'è una storia bellissima, perché il nostro è veramente il festival dell'inclusione. E il super campione della cuccagna, che da 13 anni si abbarbica lungo gli 8 metri di altezza del palo, è Reda, un ragazzo di origini albanesi che vive da queste parti anni. È 13 anni che vince sempre lui? Ragazzi, è veramente il super campione, è un fenomeno incredibile. Ma lui va in giro per fiere a vincere la cuccagna? O... No, lui è un operaio, è un bracciante normalmente, che però ha delle capacità atletiche pazzesche, e che con il suo 1,5 metri, che sono più o meno le mie misure, riesce ad arrivare in cima all'albero. Vi racconto questa storia brevemente. Abbiamo 30 secondi, Sonia, dobbiamo chiudere. Invece, dacci un appuntamento, qualcosa per oggi o domani, una cosa particolare. C'è il grande tiro alla fune, con una fune di 500 metri che collega le due piazze principali della città, a cui l'anno scorso hanno partecipato in 1200. Mi immagino tutti avvolti nella fune, un casino pazzesco, bellissimo. A che ora il tiro alla fune? Questa sera alle 19. Tutti al tiro alla fune di Ceglie, alle 19, bellissimo. Grazie Sonia, ci vediamo dopo il giro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione. Mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione. Mondo migliore, il mondo migliore. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24, e questa che abbiamo appena ascoltato, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, che vorremmo ascoltare sempre, è Un mondo migliore di Vasco Rossi, che è il Si può fare in musica, perché è la canzone più Si può fare di Vasco Rossi, secondo Rosa, che ce l'ha segnalata e che stasera sarà al Modena Park per il suo mega concerto. E siamo invidiosissimi perché vorremmo essere tutti a quel concerto. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, quindi se siete dei musicisti, dei cantanti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori, vi imbattete in una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, così la faremo ascoltare. Potete segnalarcela inviandoci i vostri Si può fare in musica alla mail sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili social, su Facebook Si può fare trattino Radio 24, su Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri account personali, sia sui nostri Facebook personali, sia sui nostri Twitter. Il mio è @CarloGabardini. E c'è anche il mio, @LeMaurizzi. Abbiamo proprio tutto. Abbiamo anche il 349-238-6666, dove ci scrive per esempio Elena da Varese per raccontare del suo bacio epico, visto che il 6 luglio sarà la giornata del bacio, quando fu stabilito il primo record mondiale di durata di bacio. Elena ci scrive: in una grotta marina tanti anni fa col mio fidanzato, poi diventato mio marito. Però vogliamo i dettagli di questi baci, se no non vale. Devi chiamare, proprio devi la storia, chiamare per partecipare. Poi ci scrive anche un altro ascoltatore, Andrea da Colle Valdezza, per parlare di azzardo. Per evitare il disastro economico dei ludopatici, pagamento solo con carte di credito e tetto ai finanziamenti, per esempio il massimo un quinto dello stipendio mensile, che è già tanto, sì, perché poi queste persone spesso ricorrono anche a dei finanziamenti proprio per finanziare i debiti fatti col gioco. Saluto moltissimo Colle Valdelsa, che ci sono stato quest'anno, anche l'anno scorso, più volte, sia nelle scuole per presentare il mio libro, e quindi saluto tutti quelli di Colle Valdelsa. Scrive Giusi: dove abito io? In provincia nord di Milano, i negozi che aprono sono solo Compro Oro, massaggi cinesi, locali slot, e gli altri che chiudono. Ed è vero, purtroppo questo accade. Allora, andiamo con chi? Con Luciano, che ci chiama da Parma. Buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi fa piacere parlare con voi. Volevo esporre il mio pensiero per quello che riguarda il gioco d'azzardo e le slot machine oggi. Prego. Con una certa nostalgia pensavo agli ippodromi, no? Una volta c'erano questi cavalli che correvano. Ma adesso non corrono più. Ancora, ci sono ancora. Ma pochissimo, sono poco. Ormai morti gli ippodromi, perché a furia di tenere sempre e di esporre l'aspetto ludico della cosa, la gente si è allontanata e questi sono praticamente finiti, anche se ci rimane qualche reminiscenza. E oggi la stessa cosa si fa con le slot machine, si fa con altre cose, insomma, in uno Stato che non fa altro che propagandare e che gestire anche il gioco, che è insito nell'uomo. E allora il mio messaggio è questo: ma dobbiamo lasciare un po' di libertà anche alle persone, perché si parla di no al proibizionismo, e qui non si fa altro che cercare di proibire questo, proibire quello, che poi l'uomo trova altre cose quando gliene proibisci una, perché dentro di noi ci sono delle spinte che non puoi evitare, che devi gestire o che devi sfogare. E allora cerchiamo di avere un po' di obiettività e magari di ritornare ancora ai cavalli. L'ambiente era bello, era sano. Certo, me lo ricordo. Beh, oddio, aspetta, guardi, un attimo. Sano l'ambiente del gioco dei cavalli, cioè, dopo aver visto, io personalmente ho visto dei film, non ci sono mai stato. Io ci sono stato tante volte. Lo stavo dicendo. Momento, anche se dietro, sì. Stavo dicendolo, che anche se dietro poi c'è sempre una parte malata in tutti gli ambienti, però non giustamente ci si può fare niente. Certo. Guarda, io sono molto d'accordo con lei sul fatto che il proibizionismo non paga, però va anche detto che la ludopatia ha dei numeri che sono spaventosi, che spesso non ci vengono comunicati, ma che sono dei numeri di quantità di persone che soffrono di questa patologia. Perché io sono d'accordo con lei che se uno vuole spendere i propri soldi, giocare, ci mancherebbe altro, siamo liberi, ma nel momento in cui diventa una patologia, questo diventa un problema. Va bene, grazie anche a questo ascoltatore, a Luciano, che ci chiama da Parma. 800 24 00 24. Adesso però è venuto il momento di invertire il corso della settimana. Dopo una settimana di cattive notizie, eccoci con la classifica delle 5 migliori buone notizie. Si può fare. E allora partiamo al quinto posto con notizia che viene da Bologna, dove è stata inaugurata la prima giostra in Italia che accoglie anche i bambini disabili. Probabilmente non sarà la prima, ma è una delle più grandi, delle più organizzate, e si trova al Parco del Velodromo di Bologna. Resterà lì fino alla fine di luglio, prima di cominciare a viaggiare per l'Italia e per l'Europa. Pensate che di queste giostre per disabili ce ne sono 20 in tutto il mondo. È una giostra super tecnologica. Vanni Serravalli l'ha acquistata per 200.000 euro in Francia e l'ha portata in Italia. Bravissimo. Al quarto posto invece i prodotti bio, dopo un iter lunghissimo, perché dal 2007, la riforma del 2007 che si voleva superare per più volte è stata data per fallita, invece finalmente nasce un nuovo regolamento della Comunità Europea sulla coltivazione biologica e la commercializzazione dei prodotti d'agricoltura bio, che entrerà in vigore dal 2020. Sono delle norme più stringenti e anche per i prodotti che vengono dall'estero, quindi ne siamo molto contenti, anche se è solo un primo passo. Terzo posto, siamo sul podio, la tecnologia al servizio dell'ambiente. Dal 22 giugno a Bergamo è partita la sperimentazione, la prima in Italia, droni che monitorano dall'alto dei cieli i tetti in amianto, in Eternit, senza mettere a rischio l'incolumità del tecnico, dell'operaio che deve andare sopra, anche perché non tutti i tetti sono in Eternit, sono pericolosi. Bisogna tenere controllato l'eventuale stato di manutenzione, e quindi di cattiva manutenzione, di usura del tetto in Eternit. Arguti, quelli di Bergamo. Arguti. E al secondo posto, l'abbiamo letto tutti ieri la notizia, in Germania via libera dal Bundestag ai matrimoni egualitari, ovvero i matrimoni fra persone dello stesso sesso. La notizia è doppiamente buona, se vogliamo, perché da un lato è passata assolutamente a maggioranza, con 393 voti contro i 226, ma dall'altro la posizione della Merkel, che ho trovato molto sana, perché lei ha detto: io voto no, perché io personalmente sono contrario. Lombardia, ma do assolutamente libertà alla, a, al suo partito, di, che è il partito cattolico anche, di votare secondo coscienza come vogliono. E quindi lei ha votato no, ma la legge è assolutamente passata, finalmente il matrimonio egualitario, che sarebbe la cosa che dovrebbe esserci in tutti i paesi civili. E al primo posto abbiamo messo invece una notizia larga che riguarda tutti. Istat: crescono i redditi e i consumi delle famiglie ai massimi al 2011, più 2,4%. Bene, è la media del pollo ovviamente, per cui c'è chi sarà cresciuto tanto e chi è cresciuto poco, ma insomma è pur sempre un segnale incoraggiante. Give me five. All right. Give me five. All right. OneExpress.it. OneExpress. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Voglio di più. Voglio di più. Non mi basta mai. Voglio di più. Non mi basta mai. Voglio di più. Non mi basta mai. Voglio di più. Non mi basta mai. Voglio un panino gigante con dentro un milione di cose. Voglio Madonna per portarmela a letto e poi mandarle un milione di rose. Voglio una vasca piena di Coca-Cola. Mentre nuoto voglio bere e abbronzarmi. Voglio telefonare al presidente americano e al telefono voglio sfogarmi. Voglio un aereo, che dico una nave, che dico uno sciatto, un sottomarino. Voglio sposarmi con mille ragazze e per ognuna io voglio un bambino. E voglio un casco di panna montata, me lo voglio poi mettere in testa e poi mangiare la panna montata, mangiarla tutta fin quanta ne resta. Voglio essere magro con i muscoli in mostra. Voglio vestiti di tutti i stili. E voglio vincere l'Oscar e il delegato, il leone dei premi mai visti. E non mi basta mai. Non mi basta. Allora, il non mi basta mai, c'è chi lo invece preferisce il quanto basta, ed è Lisa Casali che è qua con noi. Buongiorno, in collegamento telefonico. Ciao Lisa. Ciao, buongiorno. Ciao Lisa. Lisa, i nostri ascoltatori un po' la conoscono, lei è una scienziata ambientale, è una blogger di cucina. Come si chiama il tuo blog, il tuo sito? Ecocucina. Ecocucina.org. Ecocucina. Esatto. E quanto basta è un libro, ma poi sono diventate anche delle conversazioni in diretta su Facebook che hai fatto con i tuoi followers sulla tua pagina, un esperimento, come possiamo chiamarlo, di economia alimentare, o io mi sono appuntato questa cosa di antropologia cucinifera, non so perché. Cioè spendere 10 euro alla settimana e mangiare, non solo mangiare bene, ma mangiare forse addirittura meglio, più sano di come fanno tutti gli altri. Potrebbe anche essere un esperimento di tirchieria pazzesca. Infatti. È una cosa pazzesca. Com'è che sei partita con questa idea? Ma allora, diciamo che la premessa è stata che mi sono resa conto che, come capita un po' a tutti, la mia alimentazione reale non era esattamente quello che pensavo fosse, insomma, quello che avevo in mente io, nel senso che tutti siamo convinti più o meno di mangiare bene, poi però alla fine, giorno per giorno, tra mangiare fuori, l'aperitivo con gli amici, quello e quell'altro, insomma, uno si perde e magari non è non stai mangiando esattamente come vorresti. Si schifezza, detta, come si dice in gergo. Infatti, mi sono detta, proviamo a ridarci un attimo delle regole. E nel farlo ho pensato, ma se veramente volessi darmi un budget delle regole, che cosa mi serve veramente? Perché anche quello è un bel punto di partenza, che cosa veramente comprare? Perché quando vai a ridurre il tuo budget così a pochi euro, insomma 10 euro, devi veramente saper distinguere bene che cos'è l'essenziale e che cosa non lo è. E allora mi sono detta, ma perché non provare a sperimentare se è possibile vivere bene, quindi mangiare bene, mangiare sostenibile, ma spendendo poco? Perché anche questo è un po' un pregiudizio che c'è. Sul fatto verissimo, che spessissimo si dice sì. Vabbè, è facile dire bisogna mangiare sano, però le cose bio costano tanto, di più, costa di l'attenzione più. Alla fin fine, se invece vado in un posto qualunque, piglio sulla prima cosa, spendo meno. Invece tu confuti questa tesi. Sto cercando di confutare questa tesi. Diciamo che questo primo mese che va un po' a concludersi, ma non è finita qua, in realtà mi ha dato delle grandissime sorprese. E in realtà, ad esempio, ho scoperto tutto un mondo nel fare la spesa dove veramente tu puoi accedere anche al prodotto biologico, ma dei prodotti meravigliosi, però se ti accontenti di quelli che gli altri non comprerebbero. Ad esempio, sono stata al mercato di Wagner, non so se avete presente, è proprio il classico mercato da Piazza Wagner a Milano, è sulla strada, chi ci ascolta, è sulla strada per venire qua, sì. Certo. È una gioielleria, ecco, io sono stata al mercato di Wagner e gli ho detto ho 7 euro perché il mio budget che mi ero data per la frutta e la verdura era 7 euro e i restanti erano per i cereali, i legumi. Ho 7 euro, cosa posso comprare? E ma che faccia tosta! Ma vada, signorina! E poi ho detto, ma scusi, ma voi non avete niente che il milanese medio che viene non comprerebbe mai? Ci picchia, perché qui vogliono soltanto il prodotto perfetto. Ho detto, bene, datemi quello che gli altri non vorrebbero. E con quei 7 euro in realtà mi sono portata a casa ben... Allora, mi hanno dato almeno 5 kg abbondanti di zucchine appassite. Pesche leggermente ammaccate. Ma appassite cosa vuol dire? Sentiamo l'elenco. Una micro grinza. L'albicocca con un segnetto praticamente invisibile. Perché dicono che le persone quando vanno a fare la spesa vogliono il prodotto perfetto. Scusa, riepilogando, con 7 euro hai preso 5 kg di zucchine. 5 kg di zucchine. Zucchine si saranno state almeno 2 kg. Sì. Poi avevo almeno 2 kg di bietole abbastanza legnosette, poi avevo almeno un chilo di finocchi, quelli erano abbastanza andati, devo dire la verità. C'è uno schifo totale, vabbè. No, c'erano un po' scuri, ancora commestibili. Ma il bello, scusa, devo dire una cosa, perché chi ha seguito magari su Facebook le tue dirette, perché sì, il libro parte con questo impianto, poi tu a mano che hai deciso di sperimentare in prima persona quello che avevi scritto, hai raccontato quello che andavi facendo, e quindi ci sono proprio tutti i dettagli. Quello che lei racconta è vero, cioè ti fa vedere le zucchine. Carlo chiedeva, ma queste zucchine ammaccate, per esempio, no? Sì. Com'erano? Cioè, sono proprio brutte? Allora, diciamo che in questo mese le zucchine mi sono state rifilate spesso, in questa mia ricerca del prodotto anche meno bello. Perché è il mese della zucchina, cioè, nel senso, sì, no, ce n'è tanta. Ho fatto anche delle storie, mi sono inventata anche delle serie TV con le zucchine dalla mia esasperazione per la zucchina. Non ne potevi più. E diciamo che alcune, ad esempio, mi è capitato che erano veramente amare. Per esempio la zucchina quando è un po' vecchia, che è amarissima. Sì, sì. E quindi lì ho chiesto aiuto, soccorso ai miei follower su Facebook. Aiutatemi, vi prego, che cosa faccio con queste zucchine? Perché cosa si fa, per esempio, con le zucchine amare? Ad esempio sono arrivata a degli esperimenti molto buoni, ad esempio di andare a compensare questo amaro attraverso spezie, sali, erbe aromatiche. Quindi sono nate ad esempio delle ricette meravigliose di sushi di zucchine con un pesto o un hummus di legumi, in modo da andare comunque a compensare l'amaro. Il sushi di zucchina appassita, amara. È una ricetta di un mio follower. È una ricetta di un follower. Allora, anche farina del mio sacco. Io sono convinto che molti ascoltatori che sentono queste cose, che penseranno un pochino, sì, bello, però insomma, che schifetto. Vi assicuro che se poi vedete come vengono fuori queste cose qua, e anche credo ad assaggiarle, perché non le ho assaggiate, solo visto come le proponevi, ma alla fine la quantità di spezie, idee, correzioni, trattamenti delle materie è tale per cui poi però cioè, le spezie non costano tantissimo. Allora, le spezie, io diciamo che le avevo in casa, l'utilizzo che ne ho fatto è abbastanza moderato e come anche un filo d'olio. Quella è la piccola eccezione però ne usate veramente poco. Quella era messa, l'eccezione al risparmio. Sì, attenzione al risparmio, però ecco, considerate che in realtà tutti questi prodotti, sì, alcuni casi veramente erano appunto un pochino in là e ho dovuto veramente inventarmi dei modi creativi per usarle, però la maggior parte dei prodotti che ho portato a casa erano appunto, avevano dei piccoli difetti, ma erano buonissime. E una volta preparate nessuno avrebbe distinto il prodotto ammaccato da quello non. Ecco, però... Ad esempio la settimana scorsa sono andata al mercato ortofrutticolo di Milano, dove addirittura ho trovato chili e chili di verdure, vi garantisco, veramente buonissime, in ottimo stato, abbandonate in mezzo ai corridoi del mercato ortofrutticolo. Ecco, questo è un'altra... Però questo è furto, è diverso, scusami. Che cosa stai proponendo? È ma insomma, le verdure abbandonate... No, però una cosa che volevo chiederti, nel senso che in realtà fai una cosa bellissima, ma ovviamente le controindicazioni, tu giustamente lo fai anche come esperimento ed è molto sano, però andare a prendere delle verdure che sono molto avanti, tra l'altro anche in grosse quantità, va bene se poi tu hai tutto il giorno, quel giorno per cucinare, perché non è che noi di solito compriamo magari la verdura però poi la conserviamo tutta una settimana. Se tu la prendi già passata non è che puoi far passare una settimana, quindi serve un sacco di tempo. Certamente il messaggio è che quando compriamo prodotti grezzi diciamo, come ad esempio io ho mangiato soltanto del riso, della farina, quindi come cereali, cose grezze, oppure quando compriamo ad esempio verdure che non sono più freschissime, naturalmente c'è più lavoro. Quindi il messaggio certamente che si può risparmiare anche tantissimo, ci vuole però un investimento di tempo. Quindi che bisogna essere disoccupati fondamentalmente, no, però vabbè, tanto ce ne sono tanti. Questa missione questo mese l'ho fatta continuando ad andare in ufficio 8 ore al giorno, facendo anche un minimo di vita sociale, però naturalmente mi sono anche dovuta inventare modi per frequentare gli amici o il fidanzato senza sedersi a tavola al ristorante. Quindi ad esempio sono andata in kayak nel Naviglio, che è una cosa che mi ha esaltato. Questa è molto interessante, questa è un'aggiunta, cioè tu dici si aumenta anche un altro tipo di socialità, perché molto spesso noi la socialità la leghiamo all'aperitivo, al bere, al mangiare, quasi, e quindi andiamo, esatto, verissimo, e invece tu dici riscopro un altro modo di stare insieme alle persone, perché ovviamente non puoi dare un appuntamento a qualcuno al ristorante, sennò esci dalla tua scommessa, certo, di 10 euro a settimana. Ma che modo è andare in kayak sul Naviglio? Ragazzi, è una figata. È bellissimo, prendetevi un kayak gonfiabile, compratelo anche online, gonfiatevelo e andate nel Navigli, si va avanti, stupendo. Sono le esperienze più divertenti della mia vita e quindi no, non voglio smettere. In realtà, e ti sei portata il sushi di zucchine in questo caso? No, ancora no, però lo voglio fare e voglio andare avanti un altro mese almeno. E questo mese addirittura ieri ho scritto su Facebook e Instagram a tutti i miei follower: ditemi che cosa secondo voi non dovrebbe mancare nella spesa 10 euro, per cui questa settimana voglio mangiare quello che mi segnaleranno i miei follower e poi dalla prossima settimana invece ricomincio con il mio budget a 10 euro, con l'essenziale, ma questa settimana voglio vedere che cosa mi dire, cosa mi dicono di mangiare. Datemi un suggerimento anche voi. Ma qualunque cifra a questo punto o sempre dentro i 10? Se aveste solo 10 euro a disposizione, cosa non dovrebbe mancare nella vostra spesa? Datemi un suggerimento, così questa settimana mangio quello che mi dite. Potreste dirmi anche le gommose, eh? Anche la Nutella, posso dire? Dimmi la Nutella e mangerò Nutella per una settimana, se sta nel budget dei 10 euro. Ci sta di sicuro, ma ti voglio troppo bene, insomma. Va bene, io lo dico Nutella comunque, io dico Nutella. Ho preso nota. Io dico le pesche, perché la mattina mangio tantissime pesche. Ma la cosa incredibile è che ci vuole fantasia, no, per fare queste ricette. Io per esempio ogni tanto ci provo a fare anch'io, mi butto, no? Sì. Così con degli avanzi cerco di fare un po' il simpatico. Poi però me le dimentico, non le trovo più e quindi lo faccio una volta e finisce lì. Tu come fai? Hai un metodo? Cioè, a parte i tuoi follower che ti danno i suggerimenti, ne hai migliaia, quindi sei avvantaggiata. Come fai? Io in realtà ho il problema che non rifaccio mai due volte la stessa ricetta, quindi un po' come te, ogni volta le reinvento. Diciamo che almeno ho un bel database mentale su come usare tutti gli scarti, e questo ormai dopo più di 10 anni di esperimenti non me lo toglie nessuno, quindi appena vedo una buccia, un gambo, una foglia, un baccello, sai cosa fare, so esattamente qual è il modo migliore per usarlo. Poi la ricetta proprio, infatti, scusate, ve lo ricordo perché è una persona stupenda Lisa, ma non invitatela a casa perché vi guarda nella spazzatura, ovviamente, sì, perché lei guarda la vostra spazzatura e dice: ma qua c'è un pranzo per 12. Infatti, tra l'altro questo mese, veramente adesso ci vorrebbero i testimoni oculari, ma io questo mese non ho prodotto nessun rifiuto organico. Cioè non avevo il bidoncino del lupido da dover portare una volta a settimana. Sì, ma con le bucce delle pesche cosa ci fai? Tu dirai non ci sono le bucce, perché in realtà si potrebbero mangiare anche le bucce. Allora, questa settimana ovviamente le bucce le ho mangiate tutte insieme al prodotto. Vabbè, le bucce delle pesche sì, ma il cocco... Il cocco non l'ho mangiato, non ce l'avevo nella mia spesa, così come l'avevo le noci, però diciamo che la buccia del cocco è un'eccezione, non è commestibile, ma tutte le altri prodotti, non so, le foglie esterne del finocchio che buttiamo via, certo, la parte verde del cipollotto, anche le bucce delle cipolle, la classica cipolla ramata o la cipolla rossa. Che ci fai? Quelle ad esempio le ho usate per fare un brodo molto leggero che poi ho usato come base una sera per fare un gazpacho. Beh, quando non sai più cosa fare, sei disperato, butti tutto nell'acqua e fai un brodo e lo chiami gaspaccio. No, e poi dopo diventa gaspaccio. Però intanto avevo una base profumata alla cipolla. No, mi sono veramente ingegnata per non sprecare nulla. Questa, vabbè, è una cosa che un po' faccio da 10 anni, ma quando hai un budget così ristretto, devi farlo per forza. E quindi devi sicuramente dedicare molto più tempo, come dicevamo anche prima, alla cucina, ma le soddisfazioni insomma non sono mancate. Quindi tu ti senti di dire a questo punto, dall'alto di questi tuoi anni di esperimenti e anche da quello che stai facendo in queste settimane con Quanto Basta, che dove c'è spreco non c'è sanità vera, cioè non è sana la cucina se c'è spreco. È possibile fare una conclusione così? Sicuramente se noi cuciniamo in maniera tradizionale, buttando via quel 50% di frutta e verdura che qualunque ricetta della cucina italiana ci fa buttare via, se noi impariamo a valorizzare quel 50% potremmo avere anche benefici per la salute. Perché? Perché in tutte quelle bucce, gambi, foglie che noi buttiamo via ogni giorno quando cuciniamo, c'è la maggiore concentrazione di fibre, di antiossidanti. Cioè la parte migliore la buttiamo via, avete capito, sì, ascoltatori? Cioè sì, voi dovete assolutamente seguire, fra l'altro ci hai detto che vai avanti ancora un mese, perché teoricamente quanto basta doveva finire 4 settimane, non ti è bastato, sì, a proposito. No, ci ho preso un gran gusto, mi sono data i voti e mi sono detta che potevo a livello di creatività di ricette fare ancora meglio, perché avete presente il caldo che ha fatto sto mese? Quindi a volte mi tornavo a casa quei 42 gradi e non avevo assolutamente voglia di cucinare, per cui mangiavo avanzi praticamente direttamente dal frigo alcuni giorni, e quindi mi sono detta che questo mese, luglio, ho grandi aspettative, sicuramente sarà molto fresco e allora avrò più voglia di cucinare e quindi voglio fare di meglio. Vabbè dai, torni a raccontarci qualcosa però anche a noi. Con molto piacere. Qualche ricettina, E comunque a Mercato Ortofrutticolo non rubo niente. No, ma stavo scherzando, Lisa. Non... non mi permetterei mai, ci mancherebbe. Dai, immaginavo la scena insieme dei carabinieri alla sua porta. No, che ma si perdone, perché mi incuriosiscono sempre un sacco in realtà le cose che fai. E mi chiedevo semplicemente che ci sono alcune cose che esulano dalla possibilità che siano ripetibili, e quindi sono semplicemente anche un po' la casualità del fatto di andare lì e trovare delle verdure. Invece è molto interessante quando fai tutti gli esempi dove dici: io vado veramente con 7 euro e dico mi dia quello che non comprano gli altri, e questa è una soluzione che possiamo, che è più facile, diciamo, che ci mettiamo a seguire anche noi. Assolutamente, comunque dico, lì ci vanno tantissime persone e a Mercato Ortofrutticolo con 10 euro io ho portato a casa 25 kg di verdura. E poi ti sei messa anche a scambiarli, tra l'altro, a un certo punto. E li ho anche scambiati, sì, perché poi avevo 10 kg di melanzane che sono ancora lì in frigorifero, un po' me le sto portando in giro e ho scambiato un po' di melanzane con dei cetrioli. Lo scambio di melanzane non l'avevo mai sentito. Grazie Lisa Casali, grazie mille. Un grande abbraccio. Trovate tutto su internet, su Facebook, con Quanto Basta, l'hashtag che lei ha scelto per raccontare questa storia, che è anche un libro, ma le dirette su Facebook sono, insomma, ricche di dettagli, proprio si vedono anche le verdure di cui parlava lei. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per raccontarci dei vostri baci epici, perché in attesa della giornata 6 luglio, ricordiamolo, cosa fai il 6 luglio? Farai un bacio epico anche tu? Ci sto pensando effettivamente. I vostri baci. 800 24 00 24. Potrai correre il sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, l'800 24 0024, abbiamo Anna che chiama dalla provincia di Trieste, benvenuta. A voi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa buongiorno. Volevi intervenire? È per un bacio. Allora, io avevo una quindicina d'anni, parliamo di tantissimi anni fa. Ci crediamo che siano tantissimi, saranno al massimo 10. Aspetta il finale, quando chiudo vedrai va bene. Va a finire. Allora, i miei erano molto severi, specialmente mia madre, e non potevo andare se non in due posti soli, quindi in parrocchia a giocare a pallone, che sono stata una portiera anche di una squadra per forza, però visto che potevi andare solo lì ti sei specializzata, e poi da una zia. Quindi capitava che andavo qualche volta a dormire dalla zia con i miei cugini. Il mio cugino in particolare portava sempre mia zia, era un po' di larghe vedute, non come sua sorella, no? Quindi il mio cugino portava anche altri ragazzi ed era un bel vedere. Quindi ce la spassavamo. E tante volte capitava anche che io rimanevo a dormire con mia cugina. Quindi capita una di queste sere, io rimango là, avviso i miei genitori, loro sono d'accordo e si dorme. Si chiacchiera più che altro. E mattino presto, 7:30, suona il campanello e mia cugina dice: vai tu, dai. E io avevo, a parte una massa di capelli enormi, tutta scarmigliata, una camicia da notte lunga, come le nonne. Cioè non ti presentavi benissimo, nonostante. Che cosa è successo? Perché già immaginiamo. Quindi mi faccio un corridoio di non so quanti metri, perché erano case vecchie, vado, apro questa porta, mi trovo... E quello che era un amico dei miei, di mio cugino e degli altri ragazzi. Un bell'imbusto. Sì, alto 1,90 m, lui nuotava con Bianchi, che abbiamo la piscina anche, non so se lo conoscete, che poi è morto nel disastro di Brema, no? No, però concentriamoci sul momento del bacio, niente, perché ci sarà stato facile questo bacio, cosa sì, succede? Sì, è detto, quindi io apro, lo guardo, alzo gli occhi perché era altissimo, sì, e lui mi guarda, silenzio, non dice nulla, si china e mi bacia, come ha raccontato il ragazzo del lago così, di Maggiore. Senza parlare, primo incontro. Senza parlare. Ma che meraviglia. E questo bacio quanto è durato? Questo bacio poi è bello lungo, e poi lui si stacca, mi guarda ancora con questi occhi azzurri che aveva, fa dietro fronte e se ne va. E non vi siete mai più rivisti? Come no. Poi sì, però sempre era una cosa un po' particolare, anzi molto particolare, perché lui era... Un ragazzo ombroso, non parlava, solo vabbè, guardava. C'è stato un fidanzamento, Anna? È stato un matrimonio, io sono sposata ma allora... ti ho detto la fine. Allora, io sono sposata da 47 anni, ho 3 figli, 5 nipoti, quindi con lui. Allora, la storia è straordinaria, ancora più straordinaria, siamo contentissimi di averla ascoltata. Brava Anna, grazie. Resta con noi perché tra poco facciamo Crowd Me Up e chiediamo agli ascoltatori di darci una mano a giudicare i due progetti che chiedono il finanziamento dal basso, il crowdfunding. Sentiamo anche Paola da Firenze. Paola, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Vai. Prego, su cosa volevi parlare, Paola? Ah, scusa, no, pensavo fosse solo per la valutazione. Io volevo parlare in merito alla ludopatia. Sì. Ma più che altro perché mi ha impressionato una cosa che ho visto a Madrid. Cosa hai visto? Praticamente si stava passeggiando questo ottobre, insomma, per cui non 10 anni fa, e a un certo punto nel mezzo della strada c'era un sacco di gente in fila con delle transenne, e noi ci si chiedeva che cosa potesse essere. Cos'era? Praticamente erano tutti in coda per giocare alla manino, loro la chiamano la manino, no? Praticamente erano tutti in coda ad aspettare di giocare il lotto o comunque una di queste. Io rimasi letteralmente scioccata e lì iniziai a pensare, probabilmente è proprio una questione di povertà. Cioè, nel senso, ma era un'occasione particolare, no, nel senso no, che no, era, no, era il superenale, esatto. Era un venerdì, e dice il venerdì è il giorno in cui, perché poi si è chiesto a qualcuno, ma dico, ma come mai tutta questa gente nel mezzo della strada così ad aspettare in coda, tra l'altro pioveva, erano tutti lì ad aspettare di giocare questo... il lotto praticamente. Ma davanti, insomma, cos'era, una ricevitoria? Sì, tabacchi. Sì, esatto. E io sono rimasta veramente impressionata da questa cosa, per cui mi viene da pensare, e se visto, devo dire la verità, sì, rispetto a magari a Barcellona, Madrid mi è sembrata una città più povera, con tanti negozi chiusi, tanta gente per strada, insomma, ho avuto questa brutta impressione, insomma, insomma, è un racconto anche questo, se ci mancava, se posso, tra l'altro. Se, sì, se posso dire mancava una cosa, le vorrei quasi dire, sa perché da noi non c'è così tanta gente in coda? Forse perché da noi ci sono 400.000 macchine da gioco, non c'è da fare, quindi coda, non c'è da fare molto, c'è un apparecchio ogni 151 abitanti. Adesso Crowd Me Up, vai. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Allora, cari ascoltatori giurati, abbiamo Max da Roma, Anna da Trieste, Paola da Firenze, restate belli concentrati, cominciamo a presentarvi il primo dei due progetti che abbiamo scelto dalla piattaforma di Eppela, che cercano il nostro aiuto. Cominciamo, vai, primo progetto. Si chiama Ebook in Libreria, è il nome del progetto lanciato dalla casa Sirio Editore per realizzare libri digitali che però possono essere venduti nelle librerie. Si tratta quindi di libri dotati di copertina che possono essere toccati, ma allo stesso tempo, grazie alla tecnologia, si possono anche leggere su e-reader. Per sostenere questo progetto servono 3.000 euro. Ce ne parla Martino Ferrario, direttore editoriale della casa Sirio. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, Martino, un minuto di tempo, poco più, per spiegare come e perché possiamo sostenere questo progetto. Allora, io parto da un presupposto. Noi non siamo né i paladini degli ebook e nemmeno vorremmo esserlo. Siamo semplicemente dei lettori che hanno piacere a leggerli e degli editori che credono possano essere utili. Ma in particolare siamo delle persone che si sono chieste per quale motivo gli ebook in Italia proprio non riescono a ingranare. Così ci siamo messi per strada e abbiamo chiesto a tutti quelli che vedevamo con un libro in mano se leggessero anche ebook. E nel caso ci dicessero no, per quale motivo? La prima cosa che abbiamo notato è che la maggior parte di tutte queste risposte andavano in un'unica direzione. Bisognava rendere un oggetto fisico qualcosa che era stato concepito esclusivamente in digitale. E questo oggetto dovevamo rendere meraviglioso, dovevamo renderlo quasi un feticcio. E qui nascono le nostre agende, che sono iperpersonalizzate, che sono illustrate, dove la storia contenuta all'interno dialoga di continuo con quella del possessore, con quella di chi lo usa. Perché ogni book in libreria è assieme un ebook, un taccuino e un regalo, e accanto al libro può funzionare. C'è stato il gong. Quindi sarebbe finito il tempo a disposizione. Martino, devi concludere la spiegazione o hai concluso? Ho chiuso, che accanto al libro secondo me può sì. funzionare. Ma quindi, scusami, solamente per capire, vuol dire che c'è il libro sia fisico, e però se tu lo inquadri è anche un ebook, oppure l'oggetto fisico è qualcos'altro da ciò l'oggetto che ti porta? L'oggetto fisico è tutt'altro rispetto al libro, è un taccuino, un'agenda che ha la copertina, la quarta, ha dei contenuti speciali come Perfetto. Illustrazioni, intervista all'autore e un link e un QR all'interno, in modo che sia ottimizzato sia per telefono che per qualsiasi altro tipo di mezzo computer, che portano a una pagina di invio ebook diretto al proprio lettore. Adesso abbiamo capito ancora meglio. Benissimo, cari giurati, restate concentrati perché vi presentiamo il secondo progetto scelto per voi oggi. Si chiama Dado ed è un progetto made in Italy e riguarda una questione ambientale, perché è un innovativo purificatore d'aria per l'ambiente domestico. È elegante, leggero, in grado di filtrare gli inquinanti presenti negli ambienti in cui viviamo, che spesso sono molto più nocivi di quanto pensiamo. Servono 10.000 euro per aiutare questo prodotto a decollare. Ne parliamo col professor Alberto Cigada del Politecnico di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Professore, benvenuto. Per spiegarci in un minuto come e perché possiamo sostenere questo progetto di questo innovativo purificatore d'aria. Certo. Allora, Dado è un depuratore ambientale che unisce una tecnologia fotocatalitica fortemente innovativa, sviluppata dal Politecnico di Milano, che si unisce a un design molto moderno e accattivante. L'obiettivo di Dado è quello di abbattere batteri, particolato solido e composti organici volatili, così da migliorare la qualità dell'aria sia nelle nostre abitazioni private, ma anche per esempio in sale di aspetto di studi medici, dove andiamo per curarci ma in realtà spesso ci ammaliamo per la presenza di batteri che ci sono, ma pensiamo agli asili nido, pensiamo comunque anche a luoghi molto frequentati e anche ai problemi sociali che in questo periodo purtroppo spesso nascono in queste situazioni. Dado serve per migliorare la qualità dell'aria, è stato sviluppato da Next Materials, che è uno spin-off universitario che è nato per trasferire al mondo produttivo i risultati della ricerca accademica, che purtroppo molto spesso restano chiusi al loro interno. Noi ci... C'è stato finito. Prego. Ricordo solo che chiediamo il vostro finanziamento, che si unirà a quello di PostePay Crowd, che ci ha selezionati per la nostra tecnologia e raddoppierà il valore del vostro contributo. Benissimo, e allora abbiamo raccontato anche del progetto Dado per questo innovativo purificatore d'aria. Cari ascoltatori, cari giurati, è il vostro momento. Ritroviamo Max da Roma. Buongiorno. Quello del bacio con la scandinava, giusto? No, ho sbagliato, non sei, ma sei un altro. Stai sbagliando bocche, lingue, tutto. Quella è la Verona. Se è buona, poi sì, che sacrifichiamo, non è un problema. Certo. Magari, mi è rimasto impresso quello, come dire, Max. Tu per quale dei due progetti voterai e voti? Io il depuratore. Quello tecnologico, il depuratore. Sì. Perché? C'è un motivo particolare? Perché io avendo attività commerciali molto spesso sento proprio l'aria, adesso poi non ho elementi tecnici per dire, però sento un po' la differenza di aria tra dentro e fuori, diciamo così. Beh, per il negozio, perfetto, Max, grazie. Anna dalla provincia di Trieste, per quale dei due progetti, il libro in formato misto, diciamo così, o il purificatore d'aria? Purificatore anch'io. Anche lei? Sì. Per un motivo in particolare? Sì, molto particolare, personale proprio, perché io boccheggio quando ci sono anche fuori, sono come una centralina che rileva l'inquinamento, quindi Ah, quindi molto... lei ne avrebbe bisogno proprio per casa sua. Ecco, sì, per me personalmente proprio. Andiamo e concludiamo col terzo giurato, che è Paola da Firenze, che può in qualche modo cambiare le sorti di questa votazione, oppure può dare una mazzata finale, volevi dire. Finale, esatto. Paola, cosa sì, voti? Buongiorno, io voto buongiorno. Per il libro, ma per un motivo preciso, perché io uso molto l'ebook, sì. E per cui, e poi mi sembra un ragazzo giovane, un'iniziativa di ragazzi giovani che va premiata per questo motivo. Molto giusto, brava. Molto giusto. Quindi il risultato finale è 2-1, ma quello che ricordiamo è che in realtà non è che ci sono vincitori e perdenti, perché tutti i progetti, entrambi i progetti, ma anche tanti altri progetti, li trovate sulla piattaforma di Eppela. Noi ringraziamo Martino Ferrario di Book in Libreria, ma anche il professor Alberto Cicada di Dado. Grazie per essere stati con noi. In bocca al lupo. Cloud Me Up torna sabato prossimo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Eppela. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Si può fare... Cronache da un paese migliore. Io vi chiedo pardon, ma non seguo il bon ton. E che a cena devo avere sempre in mano un iPhone. Il cane di Chiara Ferragni al Papillon di Vuitton. Ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John. Salvini sul suo blog ha scritto un post. Dice che se il macino all'oro in bocca si tratta di un rom. Sono un malato del risparmio, per questo faccio un po' di terapia di Groupon. Poi lo sai, non c'è un senso questo tempo che non dà il giusto peso a quello che viviamo. Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo. Vorrei ma non posso, e ancora un'altra estate arriverà. E va bene, con questa colonna sonora J-Ax e Fedez, vorrei ma non posto. E che oggi c'è la famosa canzone dove Fedez parla della Ferragni, che poi dopo si sono fidanzati, ma qua ai tempi non erano ancora fidanzati, e diceva che il cane della Ferragni aveva il papillon. E qua mi ritorni al bacio, qua mi ritorni, esatto, al bacio. Esatto. Oggi però siamo un po' decrescenti, perché siamo partiti in No Slot, poi Quanto Basta, adesso parliamo di Digital Detox e ne parliamo con Carla Soffritti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Lei è fondatrice di Ella Studio, sì? Come possiamo chiamarlo? Un ufficio stampa e digital PR. Ecco, un ufficio stampa che fra l'altro lancia questa iniziativa, il primo digital detox day in Italia, perché non c'era fino ad oggi, nessuno ci aveva pensato a una cosa del genere. Il giorno, esatto. Diciamo in italiano, il giorno nel quale ci si libera dalla dipendenza anche digitale. Sì, abbiamo bisogno di staccare un po' la spina e wifi e magari connetterci con la natura, almeno per un giorno. Ecco perché ho pensato questo Digital Detox Day. Pensato per oggi, per puntare un po' a detossinarci. Giusto. Perché? Per l'uso eccessivo della tecnologia. Sì. E è un invito un po' rivolto a tutti per avere anche un corretto utilizzo dello dispositivo. Esatto. Cosa ti succede se stai sconnesso per un giorno? Io l'ultima volta ero stato sconnesso per un giorno, sicuro. Forse era un giorno in cui avevo 40 di febbre e non potevo muovere un dito. Perché poi diciamolo, siamo tutti realmente felicemente anche dipendenti, però poi sappiamo che non è bello. Per esempio stare a tavola con gli amici o anche seduti sul divano con la compagna, con degli altri, e tutti che guardano lo smartphone e lo schermo. Questo è un po' un abbruttimento. Allora, dobbiamo fare qualcosa. Cosa possiamo fare, Carla? Esatto, noi abbiamo chiesto come Ella Studio ai nostri alberghi, ne seguiamo più di 60 in Italia, di dotarsi di una scatola che si chiama, l'abbiamo chiamata Digital Detox Box, e di chiedere ai propri ospiti, sono quasi 2000 tra tutte le strutture, di riporvi dentro. Sempre perché le parole italiane ci fanno schifo. Sì, è vero, certo. Va bene, allora la scatolina dei cellulari. Di riporvi il proprio dispositivo per qualche ora, o magari anche per tutto il giorno, così E anziché isolarsi navigando in rete, magari si chiacchiera con le persone, si guardano i panorami e per una volta non attraverso la lente. Giusto. Un albergatore una volta mi disse una frase incredibile. Sì. Carla, mi disse, ci sono ospiti che rinuncerebbero all'acqua calda in camera, ma non al wifi. A questo siamo arrivati. Ecco, questa mi sembra un'esagerazione effettivamente contro la quale bisogna fare qualcosa, perché poi per il resto io devo ammettere che sicuramente io sono dipendente dal telefonino, come lo siamo un po' tutti. Va ricordato che il telefonino non è solo il lavoro, non è solo le mail, è talmente tante cose che diventa difficile. Quindi quando ho letto nelle statistiche che il 54% del campione non resiste nemmeno un giorno senza inviare un messaggio, beh, io lo capisco. Capisco, perché effettivamente perlomeno leggerli i messaggi, chi è che non legge almeno una volta al giorno i propri messaggi? Ma secondo voi quante volte si guarda il telefonino in un giorno? La media nazionale, dite voi. Non lo so, 20, 40, 100. Al giorno, di più, al giorno. Di più, secondo me anche 200 volte. Bravo, perché 200 volte è la punta massima, diciamo, ma la media è 46 volte al giorno, direi che si passa da un uso a un abuso. Quindi l'unica che non guarda lo smartphone è mia nipote, che è la figlia di mia sorella, che in questi giorni ospita a casa mia a Milano, lei viene da un'altra città, e io le mando dei messaggi durante il giorno per sapere cosa sta facendo e non mi risponde mai. Quindi è l'unica. Però gli adolescenti sono terribili, io non so quanti anni abbia tua nipote, ma stanno in media 7 ore al giorno con lo smartphone. Però fanno quello che gli pare, il punto è che fa quello che gli pare, non sta ad ascoltare quello che gli dice lo zio. Ok. Ovviamente, questo sì. Cari ascoltatori, oggi se volete, cari amici, potete in qualche modo dare un segnale, un momento, anziché guardare lo schermo 200 volte, proviamo oggi a guardarlo, esatto, che ne so, 100 volte, che sono già tantissime, è pur sempre la metà. Esatto. Io sono già 70, e sono le 10 del mattino, cosa faccio fino a mezzanotte? Noi ringraziamo Carla Soffritti per essere stata con noi, Digital Detox Day, l'ideatrice, oggi la giornata in alcuni alberghi italiani, poi finisce là, chissà se prenderà piede, qualcun altro vorrà estendere questa iniziativa. Noi ci risentiamo domani 8:30-10 con Si può fare. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Paolo Corleone oggi regia. Ciao da Alessio Maurizi. Ciao da Carlo Gabardini.